Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je Buonasera e ben ritrovati con Alvise su Overbooking e sui 102.2 di Radio Sandonà, una nuova puntata in cui andiamo a parlare del libro Qualcuno era comunista, scritto da Luca Telese. Vado subito a introdurre il libro, ma non prima di aver ringraziato Lele, che come sempre mi aiuta con il supporto tecnico, e Matteo, che mi aiuta a coautorare questo programma e che questa volta è assolutamente protagonista, perché ha appunto avuto l'opportunità recentemente di effettuare questa intervista a Luca Telese, che è stato ospite a Sandonà, intervista che vi riportiamo in toto questa sera. Allora, chi è Luca Telese? Luca Telese è un giornalista abbastanza famoso in Italia, scrive abitualmente per Il Giornale e per Il Fatto Quotidiano, e ha anche pubblicato due libri, tra gli altri, che a tema sostanzialmente politico. Il primo è Cuori Neri, il secondo, più recente, edito da Sperling e Kaffer quest'anno, è Qualcuno era comunista. Allora, Qualcuno era comunista, adesso andremo a parlarne diffusamente. Prima volevo introdurre un attimo il perché abbiamo potuto avere Luca Telese tra i nostri, tra virgolette, ospiti virtuali. Beh, Luca Telese è stato recentemente protagonista qui a Sandonà di un ciclo di incontri organizzato dall'amministrazione comunale, in cui oltre a presentare appunto questo libro, ha presentato degli altri lavori, degli altri libri con degli ospiti dal vivo. Un appuntamento molto interessante che ha avuto un buon successo di pubblico e ha permesso di conoscere alcuni volti nuovi, ma anche alcuni scrittori ben rodati della scena italiana, e e ha permesso anche di dibattere su temi soprattutto di attualità, che non fa mai male sicuramente. Allora, prima di cominciare con ad analizzare appunto il libro di Luca Telese, vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete telefonare allo 0421 560993 o mandarci un fax al 560994, sempre preceduto dallo 0421, oppure mandare una mail a radio@radiosandona.it. Vi suggerisco anche di seguirci in Facebook, dove abbiamo una pagina che si chiama Overbooking. Da lì avrete accesso al nostro blog, che è bloverbooking.wordpress.com, e tramite questa sono sempre a disposizione i podcast delle puntate precedenti, nonché che possono essere scaricate o anche ascoltate, diciamo, in diretta, nonché una scheda veloce e riassuntiva delle nostre puntate precedenti. Quindi di volta per volta vi prepariamo una scheda del libro che andiamo a presentare. Allora, andando su questo "Qualcuno era comunista", il libro si dipana su un arco temporale compreso tra il 1989 e il 1991 come punto di partenza, e va oltre, ossia ci narra essenzialmente, partendo dall'evento storico della caduta del muro di Berlino, appunto datata 1989, ci narra le ripercussioni per quanto riguarda il Partito Comunista Italiano, a partire da quella che era la voce del tempo. Ossia Telese fa un lavoro storiografico notevole nel riprendersi i vari articoli di giornale ricavati da diverse testate e andando a analizzarli, a confrontarli, per vedere e traccia da questo traccia delle conclusioni riguardanti quello che era il pensiero politico al tempo del Partito Comunista, e poi e ne ricava anche dei riflessi su quella che è l'attuale scena politica. Prima di andare a appunto sentire l'intervista che Luca Telese ha lasciato al nostro Matteo, l'ineffabile Matteo, vi volevo leggere una parte tratta da appunto questo qualcuno era comunista, e vi leggo una parte riguardante appunto una serie di disordini e di contestazioni che ci sono state a seguito della scelta di cambiare nome al Partito Comunista medesimo. Allora, Botteghe Oscure, Roma, 19 novembre 1989. È come una piccola apocalisse comunista. Si inizia dalla mattina, con uno sciamare spontaneo convergente. All'ora di pranzo sono già quasi 100. Continuano a crescere fino a tardi. Qualcuno si dà persino il cambio. Durerà 3 giorni. Gente che viene perché ha letto i giornali ed è saltata subito su un treno così come era vestita. Magari arriva dalla Calabria o dalla Puglia o dalla Rossa Emilia. Gente che glielo ha detto qualcuno e si è mossa. Gente che si è organizzata con 3 compagni e una macchina per arrivare a Roma, da Napoli, dai Castelli, da Torino, da tutta Italia. Vecchi e giovani, persone che appaiono sulla ribalta della storia davanti al Palazzone Rosso per 3 giorni e poi scompaiono. Una insorgenza, una folla rivoluzionaria. Sì, è proprio una piccola apocalisse comunista, l'urlo di rabbia di un popolo ferito e non organizzato, autoconvocato, come si sarebbe forse detto negli anni 70. Nasce qui, davanti a Botteghe Oscure, uno slogan che in seguito sarà difficile da decrittare, ma che accompagnerà come un ruggito tambureggiante tutto il biennio della svolta, fino a diventare il titolo di uno dei primi libri sulla scissione, "Chiamateci compagni", ovvero "Non toglieteci il nostro nome, la nostra identità". È uno stato d'animo che si solleva come un'onda, una coreografia umana improvvisata ma terribilmente vivida. Arrivi davanti a Botteghe Oscure e te li trovi davanti, con un corredo di aste, bandiere, falci e martelli di latta, residui di vecchie feste dell'unità ripescati come alabardi dagli sciancati della sezione. Tazzebao realizzati usando il retro dei manifesti. Accessori identitari. E poi, ovviamente, ci sono loro, i militanti. Tutti militanti del PC, militanti di tutte le età, militanti rabbiosi, un popolo ferito. Arrivi e trovi un gruppo di ragazzi giovanissimi con uno striscione, occhetto, giù le mani dalla falce e martello. Si fanno anche riprendere dai fotografi in posa, dietro il lenzuolo. Keffia palestinesi, barbette, pugni chiusi, sorrisi, figiciotti. La firma che hanno messo in calce allo striscione è Collettivo Comunista Piazza Annibaliano. Questi erano di Roma, chissà dove sono finiti, cosa fanno oggi. C'è persino un compagno che gira intorno al palazzone con la macchina, clacson e bandieroni rosse al finestrino. Come solo dopo le vittorie elettorali e le partite, un contestatore itinerante. Arriva da via Botteghe Oscure, risale per via Venezia, poi torna indietro e ripassa davanti alle finestre del PC. A ogni giro un colpo di clacson e un insulto, con gli altri che applaudono bravo. Bene, questo era il primo estratto da Qualcuno era comunista, l'ultimo libro pubblicato da Luca Telese. Ne leggeremo altri nel corso della puntata. Purtroppo dovrete sentirli dalla mia voce, questa volta non era disponibile Alice, che di solito ci aiuta in queste cose, e ne sentiamo enormemente la mancanza. A lei dedichiamo questo primo pezzo, che va a interrompere un po' il nostro racconto, appunto, del libro Qualcuno era comunista. Andiamo a sentire i Gotham Project, questa è Notas. Africanos en las pampas argentinas, toques y llamada de tambores. Candombe, tango. Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va en un mate. Soneta de los Tanos, piano piano nació el tango. Nació el baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango. Ed eccoci ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Alvise, Matteo e Daniele per questa nuova puntata di Overbooking, dove stiamo parlando di Qualcuno era comunista, scritto da Luca Telese. Luca Telese che un po' è, diciamo, il convitato di pietra di questa sera, nel senso che non ce l'abbiamo materialmente in studio, ma abbiamo un suo contributo che ci è stato rilasciato, o meglio è stato rilasciato al nostro Matteo in tempi recenti, e appunto è un commento a questo suo ultimo libro. Allora, per rompere gli indugi e per non fare come con Godot, che alla fine si aspetta e poi non arriva, io andrei a farvi sentire direttamente l'intervista che ci ha lasciato Luca. Ora, in sostanza l'intervista è divisa in due parti. Una prima parte, diciamo che Matteo indaga un po' le ragioni che hanno spinto Telese a scrivere quest'opera, e ragioni che vanno un po' ricercate anche in quello che è il percorso personale, anche a livello di presa di coscienza politica, dell'autore. In una seconda parte invece cerchiamo di leggere quelli che possono essere degli orizzonti per quanto riguarda la scena politica, la scena politica attuale e il futuro della sinistra italiana. Anche qui Telese è molto preciso e molto puntuale nell'esprimere la sua critica alla posizione della sinistra italiana attuale, che viene accusata in un certo senso di non rinnovarsi, quanto di meglio non c'è che farlo sentire dalla sua viva voce. Allora andiamo a sentire l'intervista a Luca Telese. E io ti seguo fin da quando hai pubblicato il libro Coinei, che ha creato poi di scompiglio nella stampa, soprattutto a sinistra, se non ricordo mai. Dopo un po' di anni hai cambiato segno, ti sei imputato dalla parte opposta e hai fatto un libro sul Partito Comunista, e credo che sia stata un po' una sorpresa generale sapere che tu nell'84 eri un giovane comunista, almeno chi come me ti seguiva sul Foglio, anche sul giornale, eccetera, non si aspettava questa mossa, diciamo. Cosa ti ha spinto a scrivere un libro così? Ma in realtà io c'è un filo di coerenza fra questi due libri, che sono un po' due grandi viaggi. Corinieri è un viaggio nell'identità della destra radicale, e quindi attraverso la storia degli anni di piombo e di un filo di vittime degli anni di piombo raccontare il culto che si è creato intorno a quei morti, che era un fattore identitario molto importante. Invece Qualcuno era comunista è il racconto del passaggio decisivo della storia del PC, quando il PC si scioglie. E quindi era anche lì un pretesto o un modo per raccontare la storia della fine dell'identità della sinistra radicale, del Partito Comunista, attraverso questo crepuscolo, questi due anni di fuoco, di dibattiti, lotte, lacerazioni, drammi umani, famiglie che si sgretolano, che alla fine producono la nuova identità della sinistra. Quindi sono come due viaggi. Il primo l'ho fatto con la curiosità di chi va a entrare in casa d'altri, avendo appunto quella storia, essendo cresciuto a Roma negli anni in cui finiva quella guerra, sono arrivato un po' come uno che è scampato a un pericolo, per una breve fortuna anagrafica. Il secondo l'ho fatto con le viscere di una persona che era stata a sinistra e che si accorgeva già allora nell'89 che stava finendo un mondo. Ma quindi, diciamo, si può dire che in questo libro c'è anche una parte della biografia di Luca Telese, giovane comunista, oppure tu hai voluto essere completamente distaccato da quegli avvenimenti che, penso, tu hai fatto il tempo a vedere? Non credo a partecipare, perché forse eri troppo giovane, però sicuramente hai fatto il tempo a rifletterci sopra in quegli anni e dopo ci sei tornato, oppure il tuo lavoro completamente distaccato sul piano personale. No, non sono dei libri biografici, perché sono dei libri documentari, sono delle inchieste, però la mia è una memoria calda, al punto che qualcuno me l'ha rimproverato per Corinieri, cioè io parto da un ricordo emozionale, da un'idea di inchiesta, e poi verifico con le fonti, le testimonianze, i documenti, compongo queste tre cose e veramente io le considero un po' dei docudrama, cioè dei libri in cui uno ha il tratto avvincente del racconto, che secondo me è sempre il veicolo principale. Per quel che riguarda, come dire, gli anni di piombo, a Roma li ho visti da bambino, ho proprio un ricordo di quella città che diventava come Belfast con i lacrimogeni. Una volta rimanemmo imprigionati con mia madre veramente in mezzo a una specie di guerra civile, suonammo dei citofoni, ho sempre questo ricordo che entrammo a casa di mia madre, era disperata, c'era il fumo, le cariche, allora ci aprì un signore, entrammo a casa di questo signore, era la sera di Sanremo, e questo signore disse: non si preoccupi, se arrivasse qualcuno di quelli ci penso io, tiro fuori una pistola. E questo dà l'idea di che cos'era la mentalità di quegli anni, se uno ha in mente anche dei film, Un borghese piccolo piccolo, era veramente una città inferocita. E quindi per me ritornare con lo spirito dell'inchiesta e del documentarismo su questi ricordi è stato un po' come superare una dimensione mitica. Per quel che riguarda l'89 invece avevo 19 anni, ero un testimone tra virgolette adulto, e sono tornato a verificare delle sensazioni che avevo sempre con quello scrupolo di avere lo storico o il ricercatore, cioè non credere all'immagine emotiva della memoria che ha. Infatti è anche molto divertente per me scoprire che molti dei protagonisti, metto a confronto i documenti, le date, molti dei protagonisti che intervistavo avevano un ricordo che era diverso dalla realtà. Il terzo elemento, diciamo, di qualcuno della comunista, che è anche un libro, se vuoi, sulla comunicazione, entrambi, no? Per Cuori Neri, su come il giornalismo aveva prodotto il fenomeno anche della violenza dichiarata, amplificata, e per quel riguardo qualcuno comunista, su come i giornali avevano subito in un primo momento una svolta che avveniva in contumacia, non c'era neanche un inviato, neanche un fotografo che sapesse che Occhetto avrebbe fatto la svolta, e su come poi in qualche modo siano vendicati, perché è il primo evento che è stato poi vivisezionato dai giornali. E quindi diciamo, a conclusione di tutto questo, la qualità del libro sta nel fatto che molti dei nomi che c'erano allora, soprattutto nella parte del mondo della sinistra, ci sono ancora adesso. E per quanto riguarda il Partito Democratico, tu vedi nella nascita, nella gestione di questa nuova creatura, questa cosa tu chiamiamola, una linea di continuità. Ormai, dal punto di vista dei nomi siamo alla cosa 3 bis, però c'è un problema molto grosso che tra l'altro diventava visibile quando facevo le ricerche in emeroteca, cioè in tutto il mondo c'erano leader che avevano i nomi di Papandreou, ma era il padre dell'attuale Papandreou, c'era Bush, ma era il padre di Bush che è stato cacciato da Obama. Se invece uno guarda la segreteria che decise la svolta, c'era un Occhetto, c'era Bassolino, c'era Veltroni, c'era Fassino, c'era D'Alema, cioè c'erano gli stessi. Si è creato una specie di paradosso generazionale per cui perdendo identità quel gruppo è riuscito però a mantenere il potere, e credo che questo sia un fattore di grave ritardo per l'Italia, per cui il PD è rimasto un partito senza identità e con dei gruppi dirigenti incredibilmente vecchi. Finché non ci sarà un passaggio del testimone, credo che continuerà ad essere una cosa senza carne né pesce. Per concludere, secondo te al giorno di oggi c'è ancora qualcuno che si può definire comunista? Nel senso in cui cerco di raccontare cosa fu l'identità comunista, penso di sì, cioè il Partito Comunista Italiano fu un comunismo molto anomalo, addirittura orgoglioso, che cercava quella che Berlinguer chiamò una terza via. Ci sono dei grossi flashback nel libro, racconto che cosa è successo in Cile, racconto questi due uomini, Berlinguer e Allende, che cercarono contro i blocchi di costruire un'identità diversa da quella del blocco sovietico e da quella del blocco americano. Per quanto riguarda il senso stretto della parola comunista, cioè osservanza ai dettami del marxismo-leninismo, penso di no. Però se io devo immaginare che cos'è come dire, un bene rifugio per un qualunque militante della sinistra italiana, penso che la figura di Berlinguer sia una bellissima figura, così come in qualche modo per un militante della destra la figura di Almirante rappresenta un'identità molto più sicura di quello che poi è accaduto con un partito che è stato in qualche modo divorato da un lato dal leghismo e dall'altro dal berlusconismo. L'altra cosa, diciamo tra virgolette un po' controcorrente, è che l'identità della Prima Repubblica sono identità che si sono combattute, ci sono state avversioni molto forti e la gente magari nella guerra civile del 43 si è sparata, che però nella costruzione della Repubblica dopo il 45 avevano tutti in mente che lavoravano a un'Italia migliore, che doveva riconquistare forza e identità dopo il flagello della guerra. Oggi, nel tempo della Seconda Repubblica, non ci sono le identità, ci sono dei partiti autobus su cui si sale e si scende come una fermata, e questo è molto più pericoloso di identità che invece magari sono state demonizzate ma che almeno erano chiare. Ci sono stati vari momenti in cui, pensiamo al 78, al rapimento di Moro, penso a un episodio, al racconto di un incontro notturno fra Berlinguer e Almirante nel pieno degli anni di piombo, in cui aver avuto dei leader che avevano carisma e solidità ha permesso e ha impedito, se vuoi, che le loro basi o il conflitto fra gli opposti poli potesse portare a una guerra civile. Grazie. Grazie a te. 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Alvise, Matteo e Daniele per questa puntata di Overbooking. Allora, questo era appunto l'intervista che abbiamo realizzato a Luca Telese, nella quale abbiamo un po' toccato i temi principali di quella che è questo qualcuno era comunista, e appunto Luca Telese, come anticipavo prima, affronta il tema un po' a livello autobiografico, parlando ad esempio di questo suo ricordo di infanzia in cui lui è in fuga nelle strade di Roma con la madre, e un po' anche andando a tracciare quelle che possono essere delle direzioni future per anche quella che è la politica italiana. Una cosa che colpisce del pensiero di Luca Telese, a nostro modo di vedere, è il fatto che Luca trova una corrispondenza in quelle che erano in quello che era il pensiero politico di sinistra ai tempi da lui considerati, ossia alla fine degli anni Ottanta, e la politica attuale, ossia allora come oggi non c'è un sentire comune, non c'è una identità comune e condivisa, ma c'è un'identità quanto mai frammentata nel senso che ci sono più correnti di pensiero che tra loro sono più o meno organizzate e che talvolta trovano dei punti di convergenza, tal'altra sono assolutamente discordanti. Un altro elemento che viene sottolineato all'interno dell'intervista e che secondo noi è rilevante sottolineare è il fatto che nel tempo non c'è stato un ricambio generazionale tra gli esponenti della sinistra di allora e l'attuale sinistra. Massimo D'Alema, Fassino, Livia Turco, Bassolino, eccetera, sono ancora depositari di quel testimone che è il vertice della sinistra italiana. Quindi non c'è stato, da quel punto di vista lì, quel ricambio generazionale che forse sarebbe stato necessario per adeguare quello che è il sentire di sinistra al cambiamento dei tempi. Questo allontanamento che un po' caratterizza la sinistra italiana rispetto a quello che alla sua missione fondante, questo allontanamento della sinistra italiana percepito nella sinistra italiana, ma non solo, perché in tempi di elezioni in Gran Bretagna si sentono gli stessi identici discorsi, ossia c'è stato in Gran Bretagna un dibattito riguardante la Broken Britain, ossia il fatto che ci sia un disfacimento sociale in Gran Bretagna, quindi una diciamo una perdita di valori tra cui la famiglia e l'istruzione, eccetera. Di questi valori si sta facendo depositaria non solo per quanto riguarda la Gran Bretagna, non solo la sinistra, quanto anche la destra. Quindi c'è una specie di allontanamento di quello che è la forza primaria e il nucleo primario di anche degli aderenti alla sinistra, per una maggior fluidità del pensiero politico, in sostanza. Quindi valori che tendenzialmente erano legati ad un modo di vedere il mondo, ora si stanno in un certo senso fluidificando, e quindi anche componenti partitiche di destra o comunque non di sinistra si fanno depositarie di valori che una volta erano patrimonio intrinseco della sinistra medesima. Per continuare vado a leggervi un ulteriore brano che a noi è particolarmente piaciuto, appunto dal libro di Luca Telese. E a un certo punto appare lui, il compagno Gianni Marchetto. Entra in scena con il suo bel faccione, gli occhi che brillano di grinta e intelligenza, cranio lucido, fonte spaziosa, naso affilato, neanche 50 anni. I capelli sopravvissuti alla calvizie che si arricciolano appena dietro le orecchie, la maglia di lana attillata color granata, una sciarpa bordeaux appoggiata intorno al collo come fosse un paramento laico. Un emblema involontariamente elegante, a ben vedere una pennellata di noncuranza operaia. Gianni ha una voglia di febbre sul labbro, che in questi giorni sembra quasi un simbolo, il segno di una passione politica. Ha una forza irresistibile dalla sua, la lingua di chi da una vita è abituato a raccontare e a raccontarsi a braccio, come tantissimi altri nel PC. Uno così, con quella maglia granata e quella sciarpa, potrebbe essere solo un rivoluzionario bolscevico dell'Ottocento, o un operaio, o uno degli indimenticabili agitatori di fabbrica immortalati da Mario Monicelli nel suo meraviglioso film sugli scioperi di fine Ottocento, I Compagni. Anche i personaggi di Monicelli erano tutti così, maglie di lana e sciarpe, lotte e scioperi, vita di operai al nord. E infatti è un operaio il compagno Marchetto. Entra in scena nel dibattito della sezione più forte del PC, nella fabbrica più importante d'Italia, e subito ti strega con la sua capacità immaginifica. I comunisti, dice nel suo intervento, come se si trattasse di una legge scritta nel marmo della storia, i comunisti quando perdono l'idea della rivoluzione. Già. Perché è anche di questo che si sta parlando dopo la svolta. Essere comunisti, anche il più moderato dei comunisti, fino alla Bolognina aveva sempre implicato quel corollario, quel vincolo di utopia necessaria, quella possibilità, remota forse, ma mai completamente esclusa, l'idea della rivoluzione. Come la Class 4, l'articolo 4 del programma del vecchio Labour più o meno significava questo: siamo un partito riformista, certo, ma pur sempre un partito che, anche in fondo a una via lastricata di riforme di democrazia, vede brillare la luce di un altro mondo possibile. E se il ragionamento poteva valere per un partito socialdemocratico britannico, figuratevi per il più grande partito comunista d'Europa. Essere comunista aveva anche questo significato prima della Bolognina, ma perché questo non detto ritornasse a galla, bisognava che se ne tornasse a parlare, e dopo la svolta di Occhetto nelle sezioni il nodo delle utopie possibili torna improvvisamente a galla perché se ne torna a parlare. Questo era il secondo ed ultimo estratto dal lavoro di Luca Telese intitolato Qualcuno era comunista. Vi invitiamo alla lettura perché è un libro assolutamente interessante, sia per il punto di vista che in cui si a cui con cui Luca Telese affronta questi che sono anche temi spinosi della vita politica di una nazione, ma anche e soprattutto, a nostro modo di vedere, per il modo di scriverne che ha Telese, un modo in un certo senso molto fluido e romanzato, che quindi affronta i temi, non immaginatevi senza serietà, anzi assolutamente, è molto preciso e molto dettagliato nel modo di descrivere e nel modo di argomentare quelli che sono i vari passaggi storici della vita del Partito Comunista Italiano, ma in un certo, in un, in, in, in egual modo riesce a raccontarcelo come una storia, come un bel pezzo di quello che possiamo pensare a una specie di romanzo. Quando io ho letto il passaggio che vi ho citato prima, quello su diciamo i dimostranti in via Botteghe Oscure che manifestano, fa quasi pensare, passatemi il paragone, all'assalto ai forni di manzoniana memoria. Magari non era questo l'intento di Luca Telese, però ne esce una specie di storia raccontata o di romanzo storico in un certo senso che a parte questa pregevole dimensione, è anche un ritratto importante di un pezzo di storia italiana. Io con questo vi ringrazio e vado a concludere, non prima di ricordarvi i modi numerosi che avete per intervenire in trasmissione. Potete farlo telefonando allo 0421 560993 o al 560994. Altrimenti potete mandare un'email a radio@radiosandona.it. Seguiteci anche in Facebook, dove abbiamo una pagina che si chiama Overbooking e dalla quale potrete in ogni momento scaricare questa puntata o le puntate precedenti. E non prima di aver ringraziato ancora una volta Matteo ed Alice che mi aiutano nella preparazione del programma e Daniele per l'incommensurabile supporto tecnico, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento con Overbooking sempre venerdì della prossima settimana. Prima di salutarvi, vi suggerisco anche questo CD da cui, che si chiama Eudora, dei Get Up Kids, da cui abbiamo preso Suffragette City.